A bordo campo di Dario Ricci. Durante l'infanzia mi hanno indicato molte stelle. Le ho ammirate, le ho sognate. Socrate, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, il generale De Gaulle, Madre Teresa. Ma nessuno mi ha mai parlato delle stelle nere. Ecco, inizia così un libro davvero singolare, Le mie stelle nere, ADD Editore. È il libro di cui oggi vogliamo parlare qui a bordo campo perché intreccia storie di vita e di sport con il suo autore, campione e stella affermata del calcio mondiale, ma forse con lui oggi di calcio parleremo poi non così tanto. Benvenuto a bordo campo e qui a Radio 24 a Lilian Thuram. Buongiorno. Oh, Lilian Thuram, beh, per i pochissimi che non lo conoscessero, diciamo che è stato uno dei grandi campioni della generazione francese dei fenomeni. L'abbiamo incrociato, Lilian, ti abbiamo incrociato tante volte in campo. Qualche scherzetto ce l'hai fatto, perché hai vinto i mondiali di Francia 98, hai vinto quegli europei del 2000 con quel gol, il golden goal di Trezeguet, ce lo ricordiamo bene, qualcosina l'abbiamo tolto anche noi, perché insomma al mondiale del 2006 ci siamo presi la rivincita. Purtroppo. Grande campione, lo ricordiamo, del Parma, della Juventus, prima del Monaco, poi del Barcellona. E oggi ti scopriamo anche come scrittore e come narratore di questo libro. Una storia della cultura, dell'altra cultura, direi, Lilian, perché scendi in campo questa volta penna in mano per raccontare un mondo di cui noi europei soprattutto conosciamo davvero poco, vero? Beh, diciamo che è vero che purtroppo quando si parla della storia della popolazione nera si inizia con la schiavitù e dopo non si impara niente altro. Credo che questo è una cosa che dobbiamo cambiare. E tu sei in prima fila, direi, in questo cambiamento, non solo attraverso queste pagine di cui ora parleremo, ma anche per un tuo impegno, diciamo, sociopolitico, no? Perché sei sceso direttamente in campo. Diciamo che oggi la lotta contro il razzismo, e non solo nello sport, è il tuo impegno primario. Beh, però diciamo che prima di dire la lotta credo che bisogna dire l'educazione contro il razzismo. Hai ragione. Penso che il razzismo prima di tutto è una maniera di pensare, di vedere il mondo, e devo dire che forse le persone non capiscono che il razzismo prima di tutto è una costruzione politica, una costruzione intellettuale, e che è diventato una cultura. Il razzismo, come il sessismo, come l'omofobia, è culturale, che dobbiamo provare a deconstruire queste problematiche per pensare differentemente. Abbiamo tutti la stessa origine, siamo tutti africani, nati 3 milioni di anni fa, e questo dovrebbe spingerci alla fratellanza. È una frase molto bella che tu scrivi in questo libro, citando Yves Coppen, uno degli studiosi, degli antropologi che in qualche modo ti hanno aiutato a sviluppare almeno una di queste tappe che costituisce questo percorso, vero? Sì, è vero, però sai che tante persone parlano di colore di pelle, però non sanno che il colore della pelle è soltanto un adattamento al clima dove vivi, capisci? Sì. E tanti bambini, tante persone non capiscono questo, e la storia ha dimostrato che tante volte hanno chiuso le persone dentro il colore della pelle, e purtroppo bisogna spiegare che il colore della pelle non è niente altro che un'adattazione al clima. Ecco, Le mie stelle nere, da Lucy a Barack Obama, ripercorre varie tappe raccontando diversi personaggi di questa cultura. Mi ha colpito molto il capitolo dedicato ai faraoni neri, forse i più illuminati, da cui trae origine in qualche modo la società egizia, o quella di Esopo, che africano, anche lui, innerva la cultura greca e poi la stessa cultura francese, no? E poi tanti campioni dello sport, basti ricordare Tommy Smith o Muhammad Ali. Ecco, c'è tra questi capitoli un personaggio che più di altri senti vicino? Però diciamo, forse a me piace François Fanon. Mm-hmm. François Fanon è una persona che viene dalla Martinica, che è vicino alla Guadalupe dove sono nato, E credo che lui spiega bene le cose perché prima di tutto lui è psicologo, è psichiatra, e spiega che diciamo non c'è una storia nera o una storia bianca, c'è una storia e dobbiamo provare a capire questa storia, perché purtroppo secondo me tante volte vedi le cose attraverso il colore della tua pelle o vedi le cose attraverso il tuo paese d'origine, e credo che c'è una storia mondiale e dobbiamo impararlo, perché così ti fa crescere, ti fa vedere il mondo differentemente. Per vedere il mondo in modo diverso, nel tuo libro c'è anche una cartina del mondo che non è rovesciata, ma semplicemente vista da un altro punto di vista. Non c'è l'Europa al centro e a nord, ma c'è l'Africa, giusto? No, però è vero, perché sai che la prima volta che ho fatto vedere questa cartina anche alla mia moglie o anche ai bambini di scuola, mi dicono: oh, signor Turam, questo non è giusto, bisogna ponerlo al modo giusto. Dico: guarda che il mondo è rotondo, puoi vedere da tutti i modi, però bisogna a pensare perché per voi e non va bene, perché hai imparato di questo modo, e questo è pericoloso, perché tante volte le persone dicono: è così, e perché è così? Perché abbiamo fatto sempre così? Ah, perché pensi così? Perché abbiamo sempre pensato così? Allora bisogna fare la domanda: è giusto pensare così o no? È giusto pensare così o forse bisogna cambiare il tuo modo di vedere? E soltanto questa la carta ti fa pensare in un'altra maniera. Sì, la cosa che mette un po' paura, un po' i brividi, scorrendo le tue pagine, Liliam, è che sembra che il razzismo per alcuni aspetti sia un'abitudine, e quindi per questo non la cambiamo, no? Cioè, è paradossale, però è il nostro modo di essere cresciuti, con l'Europa al centro e i bianchi prima di tutto e di tutti. No, ma ascolta, è un'abitudine, per questo che dico che è culturale. E credo che durante tanti secoli hanno detto che per esempio gli uomini erano superiori alle donne, e però tanti uomini lo pensano ancora. E la stessa cosa con il colore della pelle. Diciamo, tante volte quando vado a scuola dico ai bambini: guardate, potete dirmi chi è Cristoforo Colombo? E i bambini mi dicono: ma il signor Turam è la persona che ha scoperto l'America. Io dico: è strana, no? Sì. Pensate un attimo, siamo in classe e c'è una persona che apre la porta e dice: oh, ho scoperto la classe. I bambini mi dicono: ma no, non vale. Perché? Perché eravamo lì già prima. Io dico: è la stessa cosa. Quando Cristoforo Colombo arriva in America ci sono los amerindiani. Allora perché dice che ha scoperto? I bambini dicono: è vero. Io dico che è una maniera di pensare, di raccontare la storia. Durante tanti secoli hanno spiegato che c'era più di una razza, c'era la razza bianca, la nera, la gialla, la rossa, e dicevano che la razza superiore era la razza bianca. Però questo le persone non lo sanno, però anche a scuola si diceva così. E allora è per questo che dico che tante volte ci sono delle persone che hanno un sentimento di superiorità dovuto al colore della pelle, e ci sono altre persone che hanno anche un sentimento di inferiorità dovuta alla pelle. E penso che dobbiamo pensare che è la cultura che è veramente razzista, e tante volte è così e facciamo come prima, però dobbiamo cambiare il modo di vedere. Però per cambiare il modo di vedere il mondo tu devi capire che generazione dopo generazione è stata una cultura razzista che si è messa in place. Tra l'altro, nella galleria di personaggi che descrivi ci sono anche delle grandi donne, no? Proprio a rovesciare entrambi gli stereotipi. Mi viene in mente Anna Zinga, la regina di un'Angola che seppe dialogare da pari a pari con i vari sovrani europei che sul suo paese estendevano le loro ambizioni. Allora, questo per me era molto importante, di presentare delle donne importanti, perché come dicevo prima, il razzismo è la stessa costruzione che il sessismo, e vuol dire che hanno messo una gerarchia in place, e la gerarchia più vecchia del mondo è la gerarchia fra gli uomini e le donne. Allora per me era importante parlare di queste donne che hanno fatto delle cose importanti durante la storia. A bordo campo. Ospite d'eccezione oggi qui a bordo campo, Lilian Thuram, che presenta il suo libro Le mie stelle nere, ma che ha scelto proprio a bordo campo per parlare di calcio e soprattutto di altro. Lilian, entriamo adesso nel campo di calcio. Abbiamo detto anche tanti sportivi protagonisti delle mie stelle nere. Dialoghiamo in giorni difficili per il calcio mondiale e non solo del calcio italiano. Siamo purtroppo freschi dei cori razzisti contro Mario Balotelli, quelli più recenti durante Milan-Roma di domenica scorsa. Ecco, volevo sapere innanzitutto qual è il tuo parere proprio su quest'ultimo episodio? Abbiamo visto l'arbitro Rocchi che è intervenuto, ha interrotto la partita per un paio di minuti, poi l'ha fatta riprendere. È stata la prima volta quest'anno nel nostro campionato, abbiamo dovuto aspettare la penultima giornata. Però intanto già bisogna congratulare l'arbitro, penso che questo è molto importante, perché gli arbitri hanno un ruolo molto importante, perché devono decidere che cosa è possibile e non possibile su un campo di calcio, e credo che dà un messaggio molto positivo, perché credo che, sai, la storia ha dimostrato che da tutto il tempo c'è persone che hanno idea sbagliata, però la maggioria non fa niente per cambiare. E io credo che il mondo di calcio deve dare l'esempio. Per esempio, ci sono le persone che fanno i cori, gli altri che non sono d'accordo devono dire non siamo d'accordo con questo. Per esempio, ho visto che la squadra di la società di Roma ha detto che non era d'accordo con queste cose. Credo che questo è anche molto importante, e penso che la cosa più importante è che domani i giocatori stessi della stessa squadra dicono ai tifosi: guardate, non bisogna venire al campo a fare questo, è meglio stare a casa, perché le persone che vengono a fare questo al campo non sono veri tifosi. E credo così puoi educare tutta la società che ci sono degli atteggiamenti che non si può accettare, perché purtroppo tante volte ci sono giocatori e allenatori che escono dalla partita e dicono: sì sì, questo non è veramente razzista, questo è soltanto per disturbare i giocatori. Però se tu tieni questo discorso, è un discorso molto sbagliato, perché al finale non condanna questi cori. E credo che dobbiamo iniziare a cambiare il modo di vedere, e penso che ancora una volta bisogna ringraziare tanto l'arbitro, perché ha fatto una cosa importante. Ecco, ti senti di mandare un messaggio a Mario Balotelli? Credo che Mario Balotelli deve capire che non deve soffrire di questo, perché sai che al finale il razzismo è una cosa molto difficile, perché qualche volta le persone sorridono e non capiscono che Mario Balotelli, che è italiano, che è cresciuto in Italia e che forse da quando è piccolo lo aggrediscono sul collo della sua pelle, può essere qualcosa di molto violente. Capisci? Al finale le persone dicono sì, non è per disturbare, però puoi fare tante cose per disturbare un giocatore prima di andare a fare questi cori o parlare del suo colore della pelle. Per esempio, c'è una canzone per me che è incredibile, che una volta avevano cantato a Balotelli, che un nero non può essere italiano, d'accordo? Sì, sì. Però provo a capire. La cultura, secondo me, non è un problema di colore, perché non è che, per esempio, io sono francese, perché? Perché il colore della mia pelle fa che non posso essere francese? Un colore nero vuol dire che tu non puoi tenere una cultura cinese? Non c'entra niente fra colore e cultura. Avrai allora visto anche le polemiche che ci sono state per la nomina a ministro dell'integrazione di Cécile Kyenge, la prima ministra, diciamo, nera della storia della Repubblica Italiana. La Lega Nord, che sicuramente tu ben conosci, è subito scesa in campo contro questa nomina. Sì, ho capito, però bisogna chiedere alle persone che sono alla Lega Nord. Perché non sono d'accordo? Che vuol dire? Vuol dire che una nera non può essere italiana? Una nera non può essere intelligente? Vedi che quando dico che il razzismo è prima di tutto una cosa di cultura, perché che c'entra il colore della pelle per spiegare che cosa sa fare o non sa fare una persona? Direi assolutamente, assolutamente nulla. Ecco, tra l'altro proprio la ministra Chieng vuol condurre la battaglia per il riconoscimento della cittadinanza a tutti coloro che nascono in Italia, prescindendo proprio dalla matrice etnica. Immagino che sia una battaglia che ti trova pienamente d'accordo. Però perché sono d'accordo? Perché il colore della pelle non fa la cultura di una persona. Io penso che il luogo dove vive ti fa la cultura e credo che è giusto che un bambino che nasce in Italia sia riconosciuto come italiano. Perché io, per esempio, io ho due figli che sono nati in Italia. All'inizio i miei figli parlavano italiano prima di parlare francese. Parlava con i mani, ho capito, faceva il tifo anche per l'Italia. Perché? Perché è nato in Italia e italiano. Gesticolavano come un romano o un napoletano. Sì, come le mani, perché? E prima di tutto tu ti adegua alla cultura dove sei, hai capito? È come la lingua, per esempio la lingua non è legato al colore della tua pelle, capisci? Non so. Diciamo che è sicuramente un particolare a cui diamo troppa importanza. Ecco, esattamente, diciamo che si dà tanta importanza, però posso capire che si dà importanza, perché è una cosa culturale. Ha fatto scalpore anche quanto ha fatto Kevin Prince Boateng a gennaio, no? A Busto Arsizio nell'amichevole con la Pro Patria. Può essere anche quel tipo di reazione ad aver accelerato, diciamo, le prese di posizione contro il razzismo. Fino a quel momento, fino a gennaio scorso, forse mi viene da dire che c'era un pochino di, sì, diciamo, si contestava, però senza la necessaria decisione. Direi che la presa di posizione di Boateng ha accelerato questo processo. Allora, io diciamo che io penso che non è il Boateng che fa accelerare la cosa. Io penso che sono i giocatori del Milan. Perché io mi ricordo quando ero in Italia che succedeva queste cose, spesso si veniva a vedere i giocatori nera, capisci? E penso che è un sbaglio. È un sbaglio perché chi può fare cambiare le cose sono gli altri giocatori, i dirigenti che non sono neri e che dicono guarda, non possiamo più giocare per questi tifosi, allora scendiamo dal campo. E capisci? Insomma, a parlare con Lilian Thuram c'è tanto da imparare, a partire dal sottoscritto. Senti, Lilian, è mezz'ora che stiamo parlando, non sono riuscito a farti una domanda di calcio. Allora va bene, dai. Fammi giocare il jolly. Allora, okay. Questa Juventus di Conte, se ti piace e può arrivare a vincere la Champions magari il prossimo anno? Mi sembra che Antonio è un grande allenatore, perché già che quando era giocatore già era una persona molto, molto brava tatticamente e soprattutto aveva sempre questa voglia di fare le cose per bene sul campo e fuori campo, aveva questo atteggiamento di leader. Per vincere la Champions League secondo me è sempre difficile di dire ci sarà il prossimo anno. Per il momento le squadre tedesca, anche inglese, forse spagnolo, hanno un po' di vantaggio sulle squadre italiane, credo, adesso, perché i più grandi campioni non scelgono l'Italia, per esempio, per il momento. E forse migliorando anche quelle che sono le condizioni culturali dei nostri stadi, probabilmente riusciremo a riattirare qualche altro grande campione, così come lo è stato e lo è ancora Lilian Thuram, che vi invito a scoprire come scrittore. Le mie stelle nere, da Lucy a Barack Obama, ADD editore. Lilian, grazie per essere stato nostro ospite oggi a Radio 24 a Bordo Campo. In bocca al lupo soprattutto per questa partita che in qualche modo stiamo giocando tutti insieme, speriamo davvero di poterla vincere. Intanto guarda, ci siamo sempre insieme e vinciamo questa partita, dai.